Capitolo 42. Venezia, 3 novembre 1551. L'imbarcazione riprende il largo. Bernardo e Duarte remano all'unisono, Sebastiano a poppa, pronto a evitare le secche con la pertica o a dare il cambio. Joao a prua, al mio fianco. L'uomo incappucciato siede di fronte a me. Ci attende una delle navi da trasporto dei Miquez, all'ancora un miglio fuori dalla città, nel silenzio rotto solo dai colpi di remo nell'acqua e dalle grida dei gabbiani. È così che finisce un duello durato tutta la vita? Dalla caracca di Miquez ci lanciano una fune e una scaletta di corda. Dal profondo sento Gresbeck esplodere in una risata sconcia che alle mie stesse orecchie suona lugubre come un presagio di morte. E anche a quelle di Joao, forse, perché per un istante solo perde il proverbiale sorriso e ringhia: «Por qué coño te ríes?» Signori, so che avreste molte cose da dirvi, ma purtroppo la situazione non consente di abbandonarsi ai ricordi. Guarda dritto in faccia Gresbeck. «Come avrete capito, eccellenza, sono Joao Miquez, l'uomo che state cercando di fottere.» Gresbeck non fa una piega. Zitto. Per Joao non è giorno di sorrisi. La portata del vostro accordo con le 10 carogne del Consiglio deve essere tale e così esplicita per entrambi da farvi ritenere sufficienti anche le più ridicole montature, come quella che avete imbastito intorno alle confessioni di... com'è che si chiama? Tanusim Bey, mi pare, che accusò la mia famiglia di essere il vertice della rete di spie del sultano nella Serenissima. Mi chiedo da quale fogna lo avete tratto fuori. Immagino non vi sarà stato difficile convincere un qualsiasi tagliagola a prestarsi ai vostri scopi. Gresbeck resta muto, impassibile. Miquez continua. E che dire dei processi per criptogiudaismo? Prima ci avete costretto a baciare la croce con le fascine del rogo già accese e adesso ci venite a dire che lo abbiamo fatto per convenienza e che in realtà siamo gli stessi di sempre. Annuisce, tra sé. Va bene, vi hanno mandato qui da Roma per toglierci di mezzo. I veneziani vi lasceranno fare, anzi, vi aiuteranno nell'impresa. Sono dei pazzi e andranno in rovina, io e voi lo sappiamo. Non c'è uno solo dei mercanti di qui che in 5 anni non abbia fatto affari con la mia famiglia. Non c'è uno solo degli sciacalli che siedono in consiglio che non abbia contratto prestiti con noi. Senza i giudei, Venezia perderà le rotte. Il sultano gliele strapperà una dopo l'altra, gli affari moriranno. Questa città tornerà a essere uno sputo nelle mappe, schiacciato tra gli imperi. Questi aristocratici, pieni di boria, si stanno condannando a diventare dei piccoli signori di campagna. Lo spira. Ma tant'è, se è così che hanno deciso, sappiate, eccellenza, che non ci lasceremo incastrare senza colpo ferire. I mercanti che dipendono dai cordoni della mia borsa hanno già annunciato che sospenderanno ogni traffico con l'Oriente se le autorità non porranno fine a questa indiscriminata caccia al giudeo. E per quanto riguarda voi, se quello che dice la vostra vecchia conoscenza qui presente è vero, credo che il cardinale Carafa dovrà fare a meno del suo primo agente questa volta. Gresbeck continua a guardarlo, senza batter ciglio, l'aria inoffensiva e la stanchezza sulla faccia, il respiro pesante. Joao si alza e passeggia su e giù, pensieroso. Non è l'acume a mancarvi, signor mio, e potete capire certamente cosa mi interessa. Si risiede. Silenzio. Solo lo sciabordio delle onde passi attutiti sul ponte. La luce del giorno entra da 2 grandi finestre laterali a illuminare la cabina del capitano. Un tavolo, 2 poltrone e una branda. Alzarmi costa una fatica immensa. Gresbeck mi offre uno sguardo sereno. Mi siedo sul bordo dello scrittoio, scostando il lembo della mappa dell'Adriatico. Tocca a me. Il vantaggio di essere arrivati fin qui e che non abbiamo più bisogno di reciproci inganni. A 50 anni non ho più il fuoco sacro della rivolta nelle vene e sono 2 notti che non dormo. La stanchezza mi aiuterà a essere chiaro, a risparmiare le parole. Mi premo le dita sulla tempia per alleviare l'emicrania. Il tuo fottuto padrone ha 75 anni, un'età che la maggior parte degli uomini trascorre sottoterra. Quello che mi chiedo è che cosa quel vecchio immondo pretenda da se stesso, dai suoi uomini e da noi. Mi chiedo quale sia il vero disegno che lo ha sospinto in tutti questi anni. Configgere l'eresia? Punire i tentativi di riscatto dei pezzenti? Istituire i tribunali della coscienza per poter controllare il pensiero degli uomini? Mi chiedo a cosa è servito accumulare tutto questo potere. E anche ora che le teste dei cardinali spirituali cadono una dopo l'altra e che a Venezia avanza la fronda contro i giudei, mi chiedo perché. Non sono i soldi dei sefarditi, né gli affari della Serenissima, non il regolamento di conti con i nemici spirituali. E nemmeno il soglio pontificio a Enrico, non a 75 anni. Finora Carafa non si è mai proposto come papabile. La posta in gioco è qualcosa di più alto di tutto questo messo assieme. Qualcosa che incombe sulle nostre teste. Per capire cosa sta accadendo qui, cosa ci aspetta, dobbiamo conoscere il disegno fino in fondo. Sotto i baffi di Gresbeck, un sorriso, senza arroganza. Respira roco, voce profonda. Il piano, quello a cui Carafa sta lavorando da tutta la vita. Ciò che riempie la bocca del più piccolo chierico di campagna che campeggia sugli stendardi degli eserciti, sulle spade dei conquistatori del Nuovo Mondo, sui frontoni delle pievi e delle cattedrali. Lascia cadere le parole come fossero pietre. La maggior gloria di Dio. Scuote appena la testa. Imporre un ordine al mondo, concedere alla Chiesa di Pietro di rimanere l'arbitro indiscusso del destino degli uomini e dei popoli. Più di ogni altro Carafa ha capito su cosa si fonda un potere millenario. Un messaggio semplice, il timore di Dio. Un apparato gigantesco e complesso che lo inculchi nei costumi e nelle coscienze. Diffondere il messaggio, gestire il sapere, osservare e vagliare l'animo degli uomini, inquisire ogni spinta che osi oltrepassare quel timore. Carafa si è arrogato l'immane compito di aggiornare le fondamenta di quel potere, alla luce dei tempi nuovi. L'ambizione che gli incarna ha attinto da ogni debolezza del corpo della Chiesa, riuscendo a trasformarla in un punto di forza. Lutero è stato il suo più acerrimo nemico e il suo migliore alleato. Senza attaccare il timore di Dio, il frate agostiniano mise tutti di fronte alla necessità di un cambiamento. Furono gli uomini più intelligenti i primi a rendersene conto, come Carafa, come Paul, come i fondatori dei nuovi ordini monastici. A più di 30 anni di distanza, gli unici rimasti ancora in gioco. Occorreva rispondere con armi adeguate alla sfida lanciata da Lutero. E su questo nacque il conflitto. Pur gli spirituali erano disposti a mediare, pur di mantenere unita la cristianità. Carafa no, preferiva abbandonare i protestanti al loro destino piuttosto che concedere anche una piccola incrinatura dell'autorità assoluta della Chiesa. Occorreva ribattere ai luterani colpo su colpo, fare pulizia al proprio interno e dotarsi di apparati nuovi che raccogliessero la sfida. Se gli spirituali avessero vinto, per Roma questo avrebbe significato la perdita del primato. Se a un qualunque frate o addirittura a un laico come Calvino fosse stato consentito discutere da pari a pari con il discendente di Pietro, che ne sarebbe stato dell'ordine millenario? Che ne sarebbe stato della Chiesa di Roma? Che ne sarebbe stato del piano? Gresbeck si ferma, esausto. Mickets non si trattiene più. Al punto in cui siamo, signore mio, la domanda è piuttosto un'altra. Che ne sarà di noi? Lo stesso tono calmo. Sarete sacrificati? Lo guardo negli occhi. Alla maggior gloria di Dio. Già, e questa volta Messer Mickets non sarà come in Portogallo o in Spagna o nei Paesi Bassi. Questa volta sarà per sempre. Il procedimento di inquisizione di Donna Beatrice è già stato approntato. Sarà esecutivo in un paio di giorni. Ai veneziani interessano soltanto i vostri soldi. Carafa vuole una dimostrazione di forza dell'inquisizione. Vuole ridurvi all'impotenza, farvi il deserto intorno e schiacciarvi, e che la lezione sia di monito per tutti. Non potete comprare la vostra salvezza come avete fatto in passato. Gli uomini di Carafa sono incorruttibili, hanno una missione da compiere e il loro lavoro sanno farlo molto bene. Non c'è serrata dei mercanti che possa spaventarli, non gli importa nulla. Avete ragione. Venezia ne trarrà un danno irreparabile, ma chi non saprà adeguarsi ai tempi nuovi è destinato a perire. Joao è nero, rigido sulla sedia come una statua di mogano. Non parla. Gresbeck si rivolge a me. E anche i tuoi anabattisti stanno per essere spazzati via, dal primo all'ultimo. Impossibile. L'idea di Tiziano era ben congegnata, ma non esiste un piano perfetto. Fidarsi della persona sbagliata è il genere di errore che si paga. Un morso allo stomaco. 2 settimane fa, Pietro Manelfi si è consegnato all'inquisitore di Bologna. Davvero una memoria sorprendente, ha fornito tutti i nomi, i mestieri e le località di appartenenza degli affiliati alla setta. Naturalmente ha parlato anche di Tiziano. Se continuerà a essere così accondiscendente, si guadagnerà il perdono. Respiro profondamente. Tutto mi precipita nella testa, poi un presentimento. Ero sulle sue tracce da un po' di tempo. Speravo che mi conducesse a te. Quando ho avuto la notizia, mi sono precipitato a Bologna, appena in tempo per incontrarlo, poiché Leandro Alberti, l'inquisitore, aveva già deciso di inviarlo a Roma per non assumersi la responsabilità di gestire una faccenda così grossa. In questo momento, Manelfi è davanti alla congregazione del Sant'Uffizio a ripetere le sue confessioni. Tutti quelli che hai battezzato in questi anni hanno i giorni contati. Gli occhi grigi passano da me a Johao. Siete stati bravi. Stampare il beneficio di Cristo, contattare tutti quei letterati. Il colpo di Pontormo è stato mirabile. L'anabattismo era un'idea così assurda da poter funzionare. Ma non potevate farcela, non contro Carafa. Johao estrae la spada con un gesto rapido ed elegante. Allora, eccellenza, lasciate almeno che mi prenda la soddisfazione di mandarvi personalmente all'inferno, togliendovi il piacere di assistere al frutto del vostro sporco lavoro. Resbeck non si muove. Non guarda la lama. Alzo una mano. No, non ci hai detto tutto. Sapevi quale sorte ti sarebbe toccata. Lo sapevi fin da quando mi hai visto in faccia. Potevi tacere, potevi non dire nulla e farti ammazzare, lasciandoci nell'incertezza. Sorride. Il mio tempo è scaduto, Gert. Quando i giudei saranno in ginocchio, Carafa mi vorrà morto. Sono troppe le cose che so. C'è qualcos'altro, non è vero? Non esiste un piano perfetto. Non esiste una trama che possa essere al riparo dagli imprevisti. E un imprevisto c'è sempre. Un piccolo dettaglio che rischia di rovinare tutto all'ultimo momento. Ritenuto irrilevante e dimenticato, ma che all'improvviso diventa la leva che può scardinare l'intero marchingegno. Johao ha abbassato la spada. Di cosa sta parlando? Gresbeck. Nemmeno io ho più quel fuoco nelle vene, Gert. Io sono già morto. Che sia tu o un sicario di Carafa non fa molta differenza. Ho eseguito gli ordini per tutta la vita. Posso concedermi un finale diverso da quello che è in serbo per me dietro il prossimo angolo. Posso concederlo a te, al capitano Gert, all'avversario di tutta la vita. Perché? Perché siamo le due facce della stessa moneta. Perché abbiamo combattuto la stessa guerra e nessuno dei due ne esce vincitore. Il campo è di Carafa. La speranza dei pezzenti è sprofondata nel fango, ma anche Quelet deve uscire di scena. Questa volta sono io che sorrido. Le parole mi escono lente, come se le soppesassi sulla lingua. Ti sbagli, Heinrich. Anche se può sembrare facile crederlo, io e te non siamo affatto uguali. Tu hai combattuto la guerra di un altro, hai obbedito agli ordini, hai svolto una parte nel suo piano, hai servito tutta la vita per un fine di cui non ti è nemmeno concesso vedere il compimento. Questa è la tua sconfitta. Non sei stato battuto sul campo come quelle migliaia di pezzenti ed eretici che hanno lottato contro i loro signori e contro il potere di Roma. Non ti resta niente, neppure il senso di quello che hai fatto. È per questo che devi offrirmi l'ultima opportunità, perché è anche la tua. L'ultima occasione di riprenderti la vita che hai venduto a un altro. Resta in silenzio. Infila la mano sotto la giubba e mi porge un foglio. Manelfi non ha fatto soltanto i nomi dei suoi confratelli. Ha raccontato una storia davanti all'inquisitore, quella di un eretico che andava in giro a ribattezzare la gente e di un cardinale che poi è diventato papa. Una storia che, se giungesse alle orecchie giuste, farebbe saltare tutto il piano di Carafa. Et in primis interrogatus, de quis eum invitatit, doctrinae anabattiste respondit. In Florenzia Tiziano cominciò a predicarmi la dottrina anabattista et mi ribattezzò, dicendo che io non ero battezzato perché non avevo fede quando fanciullo fui battezzato, e delle altre opinioni antiche dei anabattisti, ovvero che i cristiani non possono esercitare magistrature e signorie, domini e regni, e questo è uno dei primi principi dei anabattisti. Non era però ancora fratali anabattisti, concluso, contro la divinità di Cristo, ed altri articoli nuovi e determinanti, et conclusi nel concilio che fu fatto in Venezia, come ho detto di sopra. E detto Tiziano disse che gli anabattisti erano nella benevolenza del nostro signore Giulio III, e che ben lo poteva testimoniarlo, per averlo incontrato e medesimo ante che il facessero papa. Interrogatus, an creda dectum Tizianum convenisset cardinale Johannem Maria del Monte, respondit. Il detto Tiziano mi disse aver parlato al suddetto reverendissimo cardinale per un'intera notte con vari ragionamenti, ed in particolare di quel libello famosissimo Beneficio Christi, ed è autore suo frate Benedetto Fontanini da Mantua. Tiziano mi disse aver questionato con sua signoria circa l'eresia di tale libello ed aver convenuto non esservene alcuna. Item domandò che sua signoria intercedesse per il suddetto Fontanini, carcerato in Padova, reputandolo innocente. Imperò che il Fontanini fu poi mandato libero, io credetti al racconto di Tiziano. Item Tiziano frequentò molti letterati, cortegiani e financo signori, tutti cercando di persuadere della bontà della dottrina anabattista e del suddetto beneficio di Cristo. Così fece in Florenza con i cortigiani di Cosimo de' Medici ed anche in Ferrara con la principessa Renata d'Este. Item ha fatto il medesimo ufficio di persuadere nostro Signore alla dottrina anabattista. Tiziano, nominato nella mia confessione, della quale non so altro suo cognome et per quanto io so lui portò questa dottrina anabattista in Italia e va sempre attorno persuadendo ed insegnando questa dottrina. Aspetta che anche Johao abbia finito di leggere. È la parte più sorprendente del Costituto Manelfi, la deposizione che Pietro Manelfi ha rilasciato a Leandro Alberti, inquisitore di Bologna. Una copia ha già raggiunto Roma, insieme al pentito. E state pur certi che verrà debitamente epurata, non appena uno degli uomini di Carafa potrà metterci gli occhi sopra. La seconda copia, completa di firme e controfirme, l'ho ricevuta dallo stesso Alberti, con il compito di consegnarla a Carafa in persona. Ho ricopiato questo passo, prima di depositare l'intero incartamento presso la filiale di Fuggar al fondaco dei tedeschi. È sicuramente il deposito più prezioso che abbiano mai avuto in cassaforte, e fortunatamente non lo sanno. Qui è scritto a chiare lettere che il ricercato numero uno dall'Inquisizione, Tiziano il Battista, ha potuto avvicinare il cardinale del Monte prima che fosse eletto papa e convincerlo dell'innocenza del beneficio di Cristo al punto da spingerlo a intercedere per la scarcerazione del suo autore. Fontanini è veramente uscito di prigione grazie all'intercessione di un potente. Il generale dell'ordine benedettino conosce personalmente Papa del Monte. Ci sono prove tangibili della veridicità del racconto. La mia risata suona come una conferma. Sembra pazzesco, ma è così. Mikez resta perplesso. Ancora non capisco cosa ci sia di così prezioso. Gresbeck, serio. Ghislieri e i suoi compari stanno inchiodando gli spirituali a uno alle loro responsabilità in merito alla diffusione del beneficio di Cristo nelle loro diocesi. Carafa, al Concilio di Trento, li sta accusando apertamente di non averne bloccato la circolazione e in molti casi di averla favorita. Cosa pensate che accadrebbe se gli inquisitori stessi venissero a conoscenza dell'interessamento del Papa per l'autore e per i contenuti del beneficio di Cristo? Cosa accadrebbe se i cardinali inquisiti, avvalendosi di questa testimonianza, annullassero il peso delle accuse mosse contro di loro? Johao si sporge sul tavolo. Carafa sarebbe fottuto, ma chi ci garantisce che questo documento esista davvero? Né io né voi abbiamo più niente da perdere.